io sono un povero negro ed una cosa ti prego, pur se la Vergine è bianca, fammi un angelo negro. Tutti i bimbi vanno in cielo anche se son solo tiene d'accordo.